Elog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Sventola dal balcone di Montecitorio il tricolore repubblicano. L'assemblea costituente tiene la sua riunione di insediamento. 468 dei 479 deputati già confermati prendono posto nell'aula. Il governo di De Gasperi, quello che ha portato l'Italia alla costituente, è al completo. Tutti i ministri dei sei partiti del CLN. Un grande applauso, si grida viva l'Italia, viva la Repubblica, viva Trieste italiana! A Roma, al Palazzo dei Congressi dell'Esposizione, si può ammirare in funzione il supermercato americano. Lo slogan è semplice, tutto alla portata di tutti. Si va dagli antipasti e si finisce alla frutta e al dolce. Finito il rifornimento, non resta che passare alla cassa. Sì, pagare si paga come da noi. Questo è l'unico inconveniente del supermercato americano. Ed erano 7.000 le giovani che lavoravano e guadagnavano in un solo giorno quello che avrebbero, facendo vita normale, potuto guadagnare in un mese. Ogni 15 giorni le squillo nelle case chiuse cambiavano. È soltanto un assaggio di quello che è la suggestione sonora del nostro paese dal dopoguerra fino ai giorni nostri. Lo toccheremo in questa mattinata attraverso la testimonianza di un giornalista che ha sempre guardato con un occhio attento e disincantato il nostro paese, al punto che questa mattina esce in libreria la sua nuova fatica letteraria Sangue, Sesso e Soldi. L'Italia dal 46 oggi è stata intessuta di un incrocio di queste tre grandi entità, che sono quelle che poi ancora fanno funzionare la grande macchina dell'editoria. Valeva per i quotidiani, mettici Sangue, Sesso e Soldi, ma vale oggi per la televisione, vale per ogni forma di spettacolo, vale per la politica. La politica oggi è basata sul rinfacciarsi reciproco dell'uso smodato, esagerato e impudico di Sangue, Sesso e Soldi. Avere scritto questo libro e a presentarlo con noi questa mattina è Giampaolo Panza. Panza, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'incipit, per l'introduzione. L'introduzione l'ha scritta lei, non l'ho scritta io. È divertente perché Panza, che è un decano del giornalismo nazionale, non sto qui a elencare i giornali per cui ha scritto, ha collaborato, ha la grandissima fortuna di essere contemporaneamente grande ufficiale alla Repubblica e uno dei giornalisti più eretici e probabilmente più odiati nel panorama nazionale. Questa mattina dà un nuovo regalo a tutti quelli che avranno da dire su di lui, dicendo e raccontando il nostro paese attraverso questi tre grandi filoni. Sembra facile oggi, Panza, accostare Sangue, Sesso e Soldi all'attualità. Ma io le voglio proporre questa mattina un gioco di raccontare, se è possibile sintetizzare quello che racconta nel suo corposo libro attraverso gli episodi. Quello che conta secondo me nel suo libro è che lei lo racconta attraverso piccolissimi episodi biografici o di vita vissuta di colleghe e di amici, che però danno il senso del paese. Le faccio subito un esempio: vorrei che lei mi raccontasse due episodi mettendoli in relazione tra loro. Irma La Rossa, attivista comunista del 48 che si fa trombare da un democristiano e poi lo ricatta, e l'estetista contemporanea che deve chiudere la sua attività per la crisi economica, poi lei la ritrova come amante di un onorevole. Provi a sintetizzarli e metterli in relazione, vediamo se viene fuori un continuum del nostro paese. Ma guardi, viene fuori un continuum prima di tutto perché le ragazze, quando sono belle, attirano come le mosche, come il miele, quindi da questo punto di vista Irma La Rossa, che nel 48 seduce un deputato DC che per di più veniva dalla Coldiretti, è fatale che poi sia in qualche modo, è vero che la Irma La Rossa che descrivo io poi muore un anno dopo, praticamente è uccisa da un candelotto durante una manifestazione per l'attentato a Togliatti, ma sembra quasi che sia una sorta di vendetta, diciamo, della storia che l'aveva infranto. Del caso, perché in realtà poi la storia non è che si vendica, la storia progetta senza che noi ce ne accorgiamo, e progetta anche la fine della ragazza, dell'estetista, che è uno dei capitoli che chiudono questo libro, e siamo durante la crisi di oggi, 2011, 2012 o 2013. E sì, poi dopo per campare, dopo essersi venduta, avendo chiuso il suo salone di bellezza e aver scoperto che fare la prostituta è un mestiere che gli è più congeniale che fare l'estetista. Poi inizia con un avvocato sul cliente, gli dice: ma tu sei bella in fondo. Beh, l'avvocato è ispirato a un personaggio anche della mia città, un signore che era molto, da un punto di vista professionale, assolutamente impeccabile, però aveva, non oso nemmeno dire un vizio, perché quasi tutti i maschi piacciono le ragazze, e aveva questo culto del cambiare amante ogni 5-6 mesi, e la stessa cosa è l'avvocato a cui si abbandona l'estetista, che poi troverà la sua tranquillità entrando nel letto di un deputato che è stato democristiano, poi è finito in Forza Italia, poi è finito nel gruppo misto, che è un po', come dire, l'esemplare non nemmeno teorico di questa politica italiana pazzesca che andrebbe fucilata tutta. Sì, però cioè, l'episodio ancora che più mi fa riflettere, proprio quando Irma La Rossa nel 48, dopo essere stata l'amante, aver usurpato, è entrata nel letto di questo impeccabile integerrimo democristiano, lo fotografa e lo ricatta, qualcosa che assomiglia molto a modalità che intrecciano sesso e politica, che sembravano più contemporanee rispetto all'Italia dei padri fondatori e costituzionalisti. Ma non è vero, perché guardi, l'Italia ha sempre avuto una costante, per partire solo dal 1945-46 a guerre finite, c'è sempre stato il fanatismo politico. C'è stato il fanatismo politico alle origini del fascismo, fanatismo rosso, fanatismo nero. Dopo la fine della guerra, dopo tutti i disastri, la voglia di vendicarsi dell'avversario politico, anche se anche l'avversario politico aveva vinto come te, ma c'è sempre stato, c'è anche oggi. Quello che io constato con grande... quando ero più giovane me ne sbattevo, raccontavo queste storie sui giornali, con il piacere di scrivere degli articoli che mi speravo fossero divertenti e che facessero capire al pubblico quello che avveniva. Oggi sono assai più anziano, mi spavento perché anch'io, come tanti signori anziani, non ho difese, e vedo che questo odio politico non è mai finito. E se la cosa, ecco, se devo dire, se esiste una costante insieme al sangue, al sesso e ai soldi, che però è anche la miscela di queste tre entità, come le chiamate lei, se non sbaglio, è proprio quello, il fanatismo, l'odio, ma oggi non c'è nessuna differenza. Quindi siamo un paese in eterna guerra civile, dal 45 in poi. Allora, è un vecchio proverbio, dice: gli articoli che puzzano di "io l'avevo detto" non vanno bene, perché sono sbagliati, è sbagliato dirlo, è poco elegante, è poco stile, però a questo punto infrango una vecchia regola. Io l'avevo scritto, l'ho scritto da una vita, cioè sono un giornalista che sta sul campo dal 1960, fate il conto voi, un'infinità di tempo, credo di essere il più anziano tra i giornalisti cosiddetti frontline, cioè che lavorano ancora per i giornali oltre a scrivere dei libracci. Fra quelli lucidi, diciamo, ecco. Ma non lo so. Io ho sempre avuto un grande gusto dello scrivere. Ricorderò sempre che mio padre, operaio del telegrafo, capo della squadra di emergenza dei post telegrafonici di Alessandria, quando feci bene la terza media, ero avanti di un anno, quindi all'inizio non capivo nulla, mi regalò una macchina per scrivere. Quella, io in casa ho 8 macchine per scrivere, poi naturalmente ho scoperto il computer e adesso non le uso più, ma la scrittura è la mia vita. Io mi alzo la mattina alle 6:30, perché i signori anziani non hanno bisogno di dormire molto. Che faccio? Faccio colazione, mi sistemo, mi faccio la barba, eccetera, eccetera, faccio colazione, poi accendo il computer e che faccio? Scrivo. Ecco, e questa mattina invece Panza ci racconta 800240024. Vorrei che aiutaste con le vostre testimonianze a confermare o a smentire, se questa è la vostra intenzione, la tesi di Panza, che il nostro paese in realtà è corso su questi tre grandi filoni, queste entità sembrano romanzesche, sembrano inafferrabili, sembrano fantasiose, ma sono concretamente rappresentate in tutti i momenti di passaggio più importanti, che sono l'intreccio fra sangue, sesso e soldi. 800240024. Milano, Piazza Fontana, 12 dicembre 1969. Un ordigno contenente 7 kg di tritolo esplode alle 16:37 nella sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura. 69 morti e più di 1000 feriti, 7866 attentati e 4290 episodi di violenza. Sembra un bollettino di guerra, e invece è il bilancio di una stagione politica fra le più drammatiche della Prima Repubblica, quella che negli anni 70 ha visto contrapposte l'estrema destra e l'estrema sinistra, il rosso e il nero. Ecco, inutile prenderci in giro. In realtà la tesi di Panza è questa: non abbiamo mai smesso di farci la guerra attraverso due anime apparentemente contrapposte, ma profondamente legate da un desiderio di vendetta. Inizia con la storia all'inizio del libro della ausiliaria, una storia terribile, ausiliaria violentata, uccisa nel momento della vendetta, e la sorella gemella che si mette a cercare l'assassino che ha ucciso sua sorella. Naturalmente era un conclamato eroe della resistenza, lo trova, lo seduce, lo porta a letto, poi lo lega, lo incapretta, fa le stesse cose che hanno fatto sua sorella, gli radica i capelli a zero, gli disegna una falce e un martello sulla testa, poi lo lascia in mezzo a una strada, passa un camion e lo fa a pezzi. E poi Panza, negli anni 70, è testimone, uno dei primi testimoni diretti di ciò che è accaduto a Piazza Fontana. Morti maciullati, cadaveri, odore di mandorle amare, quindi già individua il tipo di esplosivo, e scomincia a fare delle domande. Gianpaolo Panza. Di domande me ne sono fatte molte, ma di risposte me ne sono date poche. Però quello è uno dei, come dire, dei punti di svolta della mia vita professionale e anche della mia vita personale, esistenziale. Non me lo posso dimenticare quel pomeriggio. Ci andò per caso lei a Piazza Fontana? Ci andò per caso, perché io stavo facendo, allora lavoravo per la stampa di Alberto Ronchey, grande direttore, e uno dei suoi due vice direttori, Carlo Casaregno, ecco il sangue, poi ammazzato nel 77 dalle Brigate Rosse a Torino, un uomo inerme che viaggiava senza scorta, aspettato sul portone di casa mentre tornava dopo la riunione delle 13, per poi mangiare un boccone e poi ritornare alla stampa. Mi aveva commissionato, come si usava a dire allora nei giornali, un'inchiesta sulla destra. Stavo intervistando un vecchio generale che era stato un militare importante della Repubblica Sociale Italiana, quando mi chiama il corrispondente della stampa da Milano e mi dice: in piazza Fontana, alla Banca dell'Agricoltura, è scoppiata una caldaia, ci sono forse due morti. Io gli ho detto: scusa, ma perché me lo dici? Perché vorrei che tu ci andassi, perché io ho l'influenza, non ci posso andare. Allora non è che si poteva scherzare sugli ordini che venivano dati anche dai capi di livello non altissimo, come in questo caso il grande Gino Mazzoldi era il corrispondente ufficiale della stampa da Milano. Sono andato lì e un vigile urbano che era un mio vicino di casa, perché poi l'Italia è fatta di queste cose, vicini di casa, l'uomo che conosce al bar, la donna delle pulizie, lo zio che ha tanti amici. Sono riuscito a entrare nella Banca dell'Agricoltura, praticamente erano passati credo tre quarti d'ora dal momento dello scoppio di questa bomba, e ho visto l'inferno. Non ho soltanto sentito l'odore delle mandorle amare che lei ha appena ricordato, che è l'odore di quel tipo di esplosivo, ma ho visto una cosa che non mi era mai capitato di vedere, che non avevo nemmeno visto al Vajon. Attenzione, io non ero un novellino, diciamo, del sangue sul quale bisogna poi scrivere degli articoli, perché 9 anni prima ero stato a Longarone, anzi meno di 9 prima, nel 1963, quando il Monte Tocca era franato durante sulla diga del Vajon, 1500 morti, forse 2000, però non si vedevano, nel senso che i corpi ancora intatti venivano poi... galleggiavano lungo il fiume, come dice Paolino. Venivano raccolti e venivano immediatamente nascosti in grandi sacchi di plastica. Qui invece ha visto lo spezzatino umano. No, lì l'ho visto, ho visto le persone spezzate. Ricordo un ragazzo che poi penso sia rimasto vivo, si chiamava Enrico Pizzamiglio, che era un ragazzino che non so come mai si trovasse nella banca, forse era in compagnia di qualche parente, portato a braccia fuori da un vigile urbano, e mi sono reso conto che una delle gambe gli si stava staccando. Infatti ha perso la gamba, penso sia ancora vivo, se lo è lo abbraccio, è un'immagine che lui non mi ha nemmeno mai visto, probabilmente non avrà neppure letto i miei articoli o i miei libri, ma per me è una figura centrale della... Lei Panza però dopo vide tutti i protagonisti di questo episodio, parlò con Freda, con Ventura, l'anarchico Valpreda. Qual era l'impressione che si fece allora? Quando ancora era difficile definire, oggi nemmeno se ne sa nulla, figura, siamo al punto di partenza, però allora era contrapposto, i rossi c'erano che erano stati neri, i neri erano stati rossi, o se no si parlava di strage di Stato, già si parlava, ma ancora di quale di queste tre tesi si... La persona che mi ha colpito di più può sembrare strano, ma è il tassista Rolandi. Quando sono andato a intervistarlo a casa sua, erano passati 10-15 giorni dall'attentato di Piazza Fontana, ho visto un uomo morto che camminava, era spaurito. Era il testimone a carico di Valpreda? Beh, certo, perché era quello che l'aveva riconosciuto ed era andato a dire prima ai carabinieri di Milano, poi alla questura, poi al palazzaccio dove c'era stato questo confronto con più personaggi, con più sospettati. E l'aveva indicato come l'uomo che portava, che lui aveva trasportato sul taxi, portava una borsa ed era sceso lì in Piazza Fontana davanti alla Banca dell'Agricoltura. Attenzione, era venerdì pomeriggio, ma la Banca dell'Agricoltura, frequentata appunto da proprietari agricoli, affittuari, operatori di quel settore, era rimasta aperta e la bomba era stata messa lì non a caso, perché si sapeva era una bomba destinata a uccidere. Rolandi era completamente andato, gli ricordo che aveva coliche, vomitava, mi ha chiesto di accompagnarlo in bagno, mi ha pure vomitato sui pantaloni ed era un uomo distrutto, mentre invece Valpreda, io l'ho visto poi 2 anni dopo, quando stava in carcere, stava in un ospedale romano, il suo avvocato mi ha fatto mettere un camice da infermiere, mi ha portato nella stanza, era un uomo distrutto dalla rabbia dello Stato che a sentir lui lo stava incastrando anche se non aveva colpe. Invece Freda, che impressione le fece? Franco Freda. Ma Freda è un personaggio da film, penso sia ancora vivo, sia ancora abbastanza giovane. E Freda mi è sembrato un comandante di un reparto del partito nazista. Era un uomo freddo, poche parole, a differenza del suo socio Ventura, che era un pasticcione, continuava a parlare, diceva delle sciocchezze. Lui poche parole, molto gelido, mi regalò un opuscolo dicendo che era stato fatto dai maoisti, poi lui stesso poi mi disse che l'avevano fatto loro. Era un genio della doppiezza. Poi non so se sia stato o meno coinvolto nell'attentato di Piazza Fontana. Posso dire una cosa a lei e ai suoi ascoltatori? Io ormai non credo più alla verità, non ci credo perché ci ho sbattuto la testa contro tantissime volte in tutti questi... Quindi non si fa nemmeno un'opinione su certi fatti così? No, così. Guardi, certi fatti, io ho soltanto delle certezze, come dire, ma però di tipo morale o di tipo politico-culturale. La prima certezza, le dico subito, che oggi, settembre del 2013, nel vedere come si comportano tutti i partiti politici, penso che i capi di questi partiti dovrebbero essere messi al muro e fucilati. Addirittura tutti? Sì, fucilati tutti, perché stanno portandoci al disastro. Vabbè, lei rafforza la sua tesi, quindi ritorniamo alla guerra civile. Ma infatti, ma devo dirti che proprio... Ma poi non se ne esce mai, Panza. Se lei li fucila, poi i loro figli verranno a cercare lei, fucileranno i loro figli, andiamo sempre avanti in una sorta di ricorso eterno. Naturalmente ho detto fucilare... In metaforico. Ma comunque posso dire che il loro comportamento è disgustoso, perché l'Italia nei frangenti che i suoi ascoltatori, gli ascoltatori di Radio 24, che io sento spesso e mi piace molto, conoscono benissimo, l'Italia di tutto ha bisogno tranne di questa appunto guerra civile ininterrotta, costante, tra i due blocchi politici che si spartiscono l'Italia, per non parlare del terzo blocco. Beh, non a caso questi giorni riescono le foto di Piazzale Loreto, qualcuno ha messo un fantoccio di Berlusconi appeso per i piedi, le vecchie metafore riescono sempre. È pazzesco, guardi, io penso di aver scritto uno dei primi libri su Berlusconi, era il 1990, era appena si stava concludendo la famosa guerra di Segrate, quando Berlusconi, che non era ancora entrato in politica, era diventato il padrone della Mondadori e voleva mangiarsi tutto il gruppo di Repubblica dell'Espresso. Io allora ero uno dei due vice direttori di Scanza e non mi piaceva per niente lavorare per Berlusconi. Quando Rinaldi, direttore di Panorama, si era dimesso nel febbraio di quell'anno, del 90. Io mi sono dimesso, che facevo, ero solo un collaboratore, però avevo il mio bestiario che ancora oggi esce sul Libero, e la mia rubrica settimanale, mi sono dimesso 5 minuti dopo. E quella volta lì, come dire, come posso dire, ho visto il peggio della classe politica, però lo vedo anche oggi, quindi vedo oggi tanti ex comunisti, ex socialisti, ex liberali, ex democristiani, che si sono improvvisati tutti dei guerriglieri contro il cavaliere, lo vogliono impiccato, mentre invece, ma insomma... Allora Panza, siccome devo dare adesso la linea all'informazione della borsa, lei pensi... Melog, la realtà condivisa. Alcide De Gasperi ha salvato la libertà dell'Italia e non era affatto un lacché del governo americano. Una vittoria del Fronte Popolare guidato da Palmiro Togliatti e da Pietro Nenni avrebbe imprigionato il nostro paese dentro un regime succube dell'Unione Sovietica. L'aiuto degli Stati Uniti nel 1947 e nel 1948 ha impedito che molti italiani morissero di fame e di freddo. Il miracolo economico non è stato il trionfo del capitalismo selvaggio e del consumismo, ma il risultato del lavoro e della tenacia di tanti signori che cercavano un minimo di benessere. 800240024, tra un po' parleranno gli ascoltatori al telefono con Giampaolo Panza, giornalista, scrittore, autore di Sangue, Sesso, Soldi, una controstoria d'Italia dal 46 ad oggi, libro in libreria da questa mattina per l'editore Rizzoli. Ci eravamo fermati con Panza su una riflessione che adesso lui mi farà. Avevo proposto a Panza cosa faranno gli italiani adesso, dilaniati da questa costante fame di sesso, sangue, soldi, di farsi la guerra l'un l'altro, quando crollerà, ci sarà l'eclissi del polo emotivo più forte, più pregnante, più suggestivo di tutte le dispute, che è la figura fisica di Silvio Berlusconi. Ma sentiamo prima due ascoltatori. Enzo, buongiorno. Buongiorno. Ma io, sentendo Panza, devo condividere al 100% quello che dice, perché io vivo in una città rossa, Carbonia, dove il comportamento di questa vecchia classe politica è sintomatico di quello che Panza rilevava. Un esempio reale: durante le ultime elezioni è stata candidata una signora, la signora Alessandra Trasali, per Renzi, e qui a Carboni è successo il finimondo. In tutti i modi, per clude, per chiarire con precisione, odio, calunnie e compagnia hanno preferito, piuttosto che fare leggere in Parlamento, in un territorio così devastato e difficile come il Sulcis, una persona nazionale. Per dire qual è, sembra quasi che... Faccio un esempio, quali sono stati i veleni che sono stati usati, oltre quelli che il Sulcis ha già ampiamente... I veleni, che non era all'altezza questa signora di poter rappresentare il partito, quando questa signora aveva capacità, essendo consigliera comunale, aveva qualità e capacità, e poi era quella nuova classe dirigente che dovrebbe sostituirsi finalmente. Sembra che questa classe vecchia dirigente abbia clonato tutte persone che si comportano con odio, calunnia e... Sì, ma sesso, sangue, soldi dove sono in questa sua storia? Sono in questa storia nel senso che se uno diventa deputato e senatore, i soldi mi pare che ci... E c'è gente che magari faceva il meccanico, faceva l'elettricista, va a finire a prendere 20.000 euro al mese, mi pare che i soldi ci siano. E il sesso? E il sesso... Non è molto preparato. Enzo, studi. Giuseppe. Buongiorno. Avanti. Io ho 52 anni, ho vissuto gli anni di piombo e devo dire che, a differenza di allora, adesso la politica non esiste più. Adesso la politica è solo sangue, soldi e sesso. Prima questo non esisteva. Piombo era soprattutto sangue, devo dire, anch'io l'ho vissuti, perché facevo il liceo, erano anni di una tristezza abissale. Sì, però si faceva politica, cosa che adesso non si fa. Ma cosa significa fare politica? Prima si era nel gruppo se si faceva politica, adesso se si fa politica si è fuori da tutti i gruppi. Perché... Sì, però si sparava pure. Io mi ricordo compagni di classe che li vedevo per terra con la testa insanguinata o in galera arrestati perché avevano fatto rapine. Io ne ho persi tre. Di Beh, non è allegro, però, perché alla fine la guerra non contro è allegro, cosa? Però quello che dice Panza è che adesso non c'è passione, adesso non esiste passione per niente, non ci si appassiona, non si fanno solo le risse. Se voi vedete i programmi in televisione, Panza io penso che li veda, e lo schifo è questo, che io devo vedere La Gabbia. Stasera La Gabbia, sì. La Gabbia, c'è un programma che si intitola La Gabbia, ma stiamo scherzando, ma che cos'è La Gabbia? La Gabbia è quella che ci hanno messo in testa, non c'è più un discorso illuminato. Sì, però guardi, adesso sentirà Panza e le risponderà lui. Lo trovo più illuminato, Panza. Panza non dice che c'era un'età dell'oro in cui eravamo tutti buoni e tutto funzionava bene. Ahimè, è amarissimo il filo conduttore del suo libro. Non è cambiato niente. Giampaolo Panza. Ma guardi, questi due signori non hanno mica torto. No, no, assolutamente. Il signore di Carbonia, che l'altro ascoltatore, non so dove viva, ma anche lui era... Cioè, che cosa è successo in Italia? Io ho cominciato a capirlo anche sulla mia pelle personale, più ancora che durante il terrorismo, perché anch'io ho corso il rischio di essere ammazzato da una delle bande che volevano, con qualche delitto a carico di giornalisti, entrare, essere promosse, facevano l'esame di maturità per entrare nelle Brigate Rosse, e poi dovevo essere ammazzato io, dovevo essere ammazzato Marco Nozzo del Giorno, non ci trovarono. E quindi chi fecero? Eravamo nell'80, ammazzarono Walter Tobagi. Quindi io però il vero odio l'ho vissuto e continuo in parte a viverlo quando una cosa che uno dei miei tanti libri che non ho citato, ma è quello che probabilmente quando io sarò morto verrò ricordato per quel titolo, è Il sangue dei vinti. Quando io che ho fatto la tesi di laurea quando avevo 23 anni sulla guerra partigiana tra Genova e il Po, continuando a occuparmi dell'odio che aveva animato la guerra civile italiana tra partigiani, fascisti, poi c'erano di mezzo i tedeschi, c'erano di mezzo gli inglesi. Fu accusato di revisionismo, di aver usato soltanto le fonti di estrema destra. Mi vanto di essere un revisionista. Quando io ho scritto Il sangue dei vinti, che è un libro che a tutt'oggi ha venduto, credo, più di 1 milione di copie, e che ha aperto per la prima volta, scritto da un signore come Giampaolo Panza, che non veniva dalla destra, come un altro grande giornalista che era Giorgio Pisanò, che aveva raccontato prima di me, lui era anche un reduce della Repubblica Sociale perché aveva almeno 15-20 anni più di me, e quando ha raccontato che cos'è stata la guerra civile italiana, che poi ho continuato a descrivere, e adesso confesso che sto preparando un altro libro che dovrebbe uscire nel 2014, che è complessivo, è una riflessione, ma soprattutto un racconto di episodi. Ma scusi Pazza, secondo lei non è che proprio in realtà c'è questo grande equivoco mai chiarito? Quando mi offrono di andare a presentare in giro il mio libro, come sta già accadendo per Sangue, Sesso, Soldi, non ci vado perché so che bastano 10 persone che odiano Panza e i suoi libri, che creano problema ai librai che mi invitano, ai circoli culturali che mi chiamano. Beh, è già accaduto episodi in cui l'hanno impedito di presentare il libro. Ma io sono stato aggredito addirittura in una città civilissima come Reggio Emilia, e questo per uno dei miei libri che era intitolato La Grande Bugia. Eravamo nel 2006. Ecco, ma perché ancora esiste, scusi Panza, le faccio una domanda, perché ancora esiste la scomunica rispetto a alcuni temi che uno può avere le opinioni che vuole, non possono essere dibattuti con un civile dibattito? Non possono essere dibattuti, ma soprattutto bisogna tappare la bocca a chi pretende di parlarne. Grazie a Dio i violenti non sono ancora entrati dentro i fortini delle case editrici librarie, perché se fosse così probabilmente per una serie di autori, a cominciare dal sottoscritto, bisognerebbe andare a pubblicare i libri da qualche altra parte. Sentiamo Delfo. Delfo, buongiorno. Ah, buongiorno signore. Vi ho chiamato perché facevo alcune riflessioni sull'intervento del signor Panza. Mi piace quello che ha detto. Una cosa che invece avrei voluto sentirgli dire era che non abbiamo speranza, non ne abbiamo alcuna. Veda, mezzo secolo fa, dopo la guerra, io mi ricordo, metà della popolazione aveva lo sguardo radioso rivolto verso il miraggio russo, il comunismo che doveva risolvere tutti i problemi. l'altra metà aborriva tutto questo e stava in processione, come dicevo, non vogliamo Dio che nostro padre, noi vogliamo Dio che nostro re, dietro la NATO o Gladio o tutte quelle altre cose. Però almeno era definita, era diciamo una divisione manichea se vuole, ma definita del paese, oggi non è più così. Ma tragica, mi consenta, guardi, io ho da allora sono convinto di una cosa, questo cosiddetto popolo italiano, che non è un popolo, è un'accozzaglia malamente assortita di gruppi etnici diversi con un livello di intelligenza medio. Ma dove esiste, scusi, il popolo omogeneo, etnicamente intangibile, nella fantasia, scusi, questo siamo e su questo dobbiamo vivere, non è che possiamo fare un cambiamento radicale partendo dalle nostre basi genetiche, mi sembra un po' esagerato. Claudio. Buongiorno. Sì. Dunque, il sangue, io ho un nonno che è stato fucilato l'11 agosto del 1944 da partigiani, considerato uno dei comandanti dei franchi tiratori, episodio che riporta anche Malaparte nella pelle nel libro, e quelli che stavano sulla popolazione civile fiorentina. Questo che prenotavo una cosa, che dall'avvento di Berlusconi, cioè dal 94, non c'è stato riconoscimento reciproco del perdente verso il vincitore, cioè intendo questo, quando Bush ha vinto le elezioni, anche se erano dubbie, a un certo punto Al Gore ha detto bene, cioè, sono americano, cioè, questo è il mio paese, giusto o sbagliato, ma questo è il mio paese, un po' detto anglosassone. Qui invece è stato sempre mettere in discussione quella della vittoria. Nessuno, diciamo, non c'è stata una definizione della possibilità di alternarsi. Diamo un attimo le informazioni del traffico, così poi Panza ha più tranquillità nel rispondere, perché il tema mi sembra abbastanza interessante. Alla fine, per quanto vogliamo parlare di contemporaneità, esiste un grosso non detto, un grosso equivoco mai chiarito, qualcosa su cui non si è mai più stato più possibile serenamente interrogarsi, discutere, approfondire, che è il grande nodo di quello che è accaduto in Italia negli anni in cui l'Italia si ricostruiva, ma su cosa si è ricostruita. Melog. La realtà condivisa. Il 68 si è rivelato un tragico bluff che ha distrutto la nostra università e ha dissolto il principio di autorità indispensabile a qualsiasi ordinamento sociale. La borghesia di sinistra non era per niente illuminata e saggia. Disprezzava chi non apparteneva ai suoi clan, odiava i poliziotti, urlava «Basco Nero, il tuo posto è al cimitero!» e firmava appelli mortuari contro il commissario Luigi Calabresi, ritenuto a torto l'assassino dell'anarchico Giuseppe Pinelli. La meglio gioventù spaccava il cranio agli avversari a colpi di spranga e di chiavi inglese. Il terrorismo rosso esisteva e non era affatto un'invenzione delle destre reazionarie. I brigatisti erano militanti in carne e ossa che volevano distruggere il capitalismo ammazzando cristiani senza colpa. Vallì, buongiorno. Buongiorno, posso parlare? Sì, veloce. Senta, volevo informare Giampaolo Panza del ragazzo Enrico Pizzamiglio, del quale ha parlato quando ha raccontato l'arrivo in Piazza Fontana alla Banca Nazionale dell'Agricoltura e ha visto questo ragazzo portato via da un vigile. Il ragazzo era quello senza una gamba, che cadeva la gamba. Una gamba, esatto. E ha aggiunto anche, non so più niente di lui, forse è ancora vivo. Volevo dirgli, se vuole contattarlo, che da allora ha un'edicola insieme alla sorella in via Lorenteggio. Perché lei lo conosce? Io lo conosco perché vado a comprare ogni tanto qualche giornale da lui. E volevo dire che si trovava alla banca perché accompagnava la sorella maggiore, che aveva circa 20 anni allora, e avevano fatto persino una corsa per arrivare puntuali perché dovevano pagare una cambiale per i genitori che avevano una tintoria in via Cascina Barocca. Resti in ascolto, Vallì, resti al telefono. Sì, Giampaolo Pazzo, come vede una cosa In una trasmissione in cui per colpa mia... Può accadere di tutto. Parliamo sempre di odio, di fastidio, di aggressività, di faziosità politica. Questa signora vorrei abbracciarla, mi ha dato una notizia. Se vuole può parlarcela, sta ascoltando. Devo dire che sono commosso, ho le lacrime agli occhi, perché vuol dire che quell'immagine che mi aveva colpito appena arrivato davanti a quella banca maledetta con tutto quello che era accaduto, Fantastico, saluti. Saluti. Come sta oggi questo Pizzamiglio, signora Valli? Sta bene, è un uomo maturo, con i capelli grigi, gli occhiali, e tiene sempre questa edicola insieme alla sorella. Ma senza una gamba? Ha perso una gamba, sì, zoppica, cammina zoppicando ovviamente, sì, da allora. E volevo dire che allora, quando gli avevano dato questa edicola, correva voce che era stato il Partito Comunista a dare questa edicola alla sorella e a lui, e da allora tengono questa edicola. E lei pensa lo andrà a trovare lo stesso, sapendo quest'ultimo episodio? Ma certamente, mi frega a me di chi gli ha dato l'edicola. Ora non so se sia vero o meno, mi importa che prima Enrico Pizzamiglio sia vivo, che sia un signore cresciuto, spero che lo shock di essere stato nella banca in quel momento, mi sto domandando se l'accompagnava la sorella immagino sia ancora viva, perché se hanno l'edicola insieme tiene vuol dire sempre l'edicola insieme al fratello. Quando mi capiterà di andare a Milano, dov'è l'indirizzo? In via Lorenteggio. L'indirizzo è via Lorenteggio, di fronte al supermercato gigante. Lo si trova. Però pazza, almeno se gentile, è una fata, questa signora che ha chiamato. Vi do i telefoni dopo, così vi parlate, vi dite tutto. Magari Panza ci dica quando ci va, mi piacerebbe assistere al fatale incontro dopo tanti anni. Prima volta che andrò a Milano, che io ho la città in cui ho abitato molto, ma adesso io abito in un piccolo paese in Toscana, grazie a Dio sto lontano dai fumi delle metropoli, Milano e Roma compresi. Ma appena ci andrò chiamerò lei, glielo farò sapere, in modo che se avete voglia di accompagnarci, di andare lì. Comunque, no, sarà un grande momento. Questa signora... Tanto do un bacio affettuosissimo a lei, ma la incarico di dire che sono felice di aver saputo che Pizzamiglio, questo ragazzino, allora era piccolo, avrà avuto 12 anni, 13 anni, non lo so, 14, mi è rimasto in mente, adesso è vivo e quindi è una persona che in qualche modo è stata graziata per chi crede nel Padre Eterno, dal Padre Eterno, per chi crede ad altre cose, dalla storia, poi chi gli abbia dato meno... L'edicola al partito. Non me ne può fregare di meno. Senta Pazza, ma le sembra possibile che... Vede, alla fine siamo partiti parlando di episodi futili, divertenti, Irma la Rossa che seduce il democristiano e gli fa la foto, ci sono tanti episodi belli, Gestapo, la prostituta Gestapo che svergina il flautista che tutti pensavano fosse Finocchio, ci sono delle storie bellissime, ma alla fine andiamo sempre su questo non detto, l'Italia non ha mai fatto i conti con la propria storia, ma le pare possibile, vero, che le persone che oggi si accapigliano in Parlamento siano a parte gli eredi di quelli che... immaginano una rivoluzione incompiuta o gli altri che vogliono vendicare il sangue dei vinti, cosa hanno più a che fare con queste contrapposizioni che comunque avevano qualcosa ma di no, epico? Infatti, nulla. È una delle ragioni per cui io ho esordito la chiacchierata con lei e con i suoi ascoltatori con questa frase micidiale che adesso poi Adele, quando l'avrà sentita, è la mia compagna ed è la persona che mi evita di fare errori troppo pesanti, cioè mi sono partiti da fucilare, opinione che continuo ad affermare, perché evidentemente non sono in sintonia con, come dire, con i bisogni anche dei loro stessi elettori, perché l'Italia che non sa trovare, ma qui le classi, cosiddette classi dirigenti sono i responsabili numero uno, che non sa trovare una via d'intesa, un accordo per non ammazzarci a vicenda, sono responsabili, mentre invece le persone che hanno telefonato a lei adesso e immagino i tanti che ascoltano la sua trasmissione vogliono delle cose più banali, cioè vogliono che esista un governo che si curi anche dei loro interessi, che il paese funzioni, che la baracca non salti per aria, che Giorgio Napolitano scampi fino a 108 anni e venga continuamente rieletto Presidente della Repubblica, perché è l'unico bastione contro il quale questi forsennati di tutti i partiti si abbattono e vengono ricacciati. L'Italia di questo ha bisogno, insomma, io... Certo Pazza, proprio dell'ultima parte del suo libro racconta un episodio che conferma quello che dice lei. Se non si guardano i problemi reali e concreti, il collega giornalista, che poi non so se era lei o un suo collega veramente, ritrova una sua antica amante con cui si era accoppiato furiosamente alle parti di Piazza Navona, sposata, bella signora, il marito era stato licenziato, hanno difficoltà in famiglia, che ha aperto un banchetto a Piazza Navona e vende le povere cose che ancora le permettono di fare una vita dignitosa, quella è la realtà. Questa è la realtà, ma guardate, allora io l'ho detto prima, abito in un piccolo paese, mi sposto spesso in macchina per andare comunque alla città più vicina, o per accompagnare Adele oppure perché cerca una libreria. Non vedo altro che cartelli: compro oro, compro oro, compro oro. Ma per forza di cose. Vuol dire che qualcuno se lo vende quest'oro, se tanti lo comprano. Ma se esistono i posti che li comprano, come ha detto lei, è perché ci sono le persone che le vendono, e quasi sempre le persone che vendono i pochi ori che hanno in casa lo fanno perché non hanno più quattrini, perché magari hanno perso il lavoro, perché non riescono ad aiutare i figli, che non riescono a appunto, che non riescono a trovarne uno. E cosa è cambiato dal momento che in cui le persone davano l'oro alla patria al momento in cui se lo vendono perché non ce la fanno a tirare avanti? Ma sai, dare l'oro alla patria per fare una guerra del fascismo era un suicidio pazzesco, perché se voi dobbiamo aprire anche questo capitolo, io l'ho studiato a lungo, ho scritto libri sulle guerre di Mussolini, erano delle cose folli, quindi chiedere a delle povere persone di dare la fede matrimoniale per la patria, per mandare dei soldati in guerra, quando si sapeva già che l'Italia comunque questa guerra l'avrebbe persa con tutti i guai che poi ne sono venuti, ma anche oggi però fa tristezza. Cioè io immagino, se immagino, io non ho più né mio padre né mia madre, ma l'unico oro che possedevano era l'anello nuziale, quindi che fanno? Vanno al primo compro oro e devono vendere magari sotto, però questo succede. Gian Paolo Pazza, non è che la voglio interrompere, ma la sigla dice che abbiamo finito. Ricordo Sangue, Sesso, Soldi, una controstoria d'Italia al 45 oggi, Rizzoli. A domani.